allora, hai visto che bella rinfrescata rispetto ai giorni prima che si schiattava? Oh, mi copi? A cos'ho le allucinazioni? Marcolino, vabbè, sparito sei male. Un attimo. Oh, poco fa ho risposto, chi era? Io, Giada. Ehi, ciao, già t'avevo scambiato per Luca, come hai parlato veloce, prima sembrava Luca dal Monte. Allora, ti hai visto che bella rinfrescata? Ci voleva però, eh? Eh sì, sono contenti anche i contadini e anche i bacini si devono riempire, vabbè che non ha fatto nulla ancora. Eia, io ho salutato dall'altra parte anche. Ah, perché lo stai usando ancora là? No, non lo usavo mai, non lo usavo mai. Avevo tolto tutto anche il ricevitore, ma oggi ho voluto attaccarlo perché la roba che rimane ferma si rovina. C'è gente ancora? Come è già? Ho detto, c'è ancora gente. Sì, loro già entrano lì. Non è che non entrano. Le persone del 20 entrano, dai. Io avevo smesso perché in realtà una volta fatte le prove, sai, come si chiama, la sperimentazione, è finito lo scopo di quella frequenza, capito? La 27 è quella, l'unica vera frequenza. Beh, veramente un po' abbandonata a tutti, io più volte ho acceso e non c'era nessuno. Vabbè, ho detto forse anche l'estate, il caldo. Sì, io immagino che molti siano, quando possono vadano al mare, noi siamo andati veramente poco, Cioè tutto giugno quante volte siamo andati? 4-5 volte forse, per eccesso mi 5 volte. Poi gli altri, vabbè, non ho più sentito Alghero, non ho più sentito varie persone, dai. Non ho più sentito Franco. C'è Natalino spesso che ascolta, però anche lui ha detto, non ve nessuno, allora spengo. Giusto, no? Vero Natalino, ci sei? No, deve essere drumita ancora. Eia, sì, ma guarda, c'era quel giorno che c'erano 30 gradi in casa, in camera mia, no? Non si poteva stare, è fuori peggio. Per fortuna ha rinfrescato, così. Siamo usciti nel pomeriggio, siamo andati da Lidl, c'era un'aria bella fresca, anche bella corrente, quindi la macchina era, non era nemmeno calda, pur essendo al sole, al poco sole rimasto, mi singhiozzo, mi. Ehi, vabbè, io sono andato 5 volte, sono andato 2 volte al mare, in tutte le ferie che avevo, ma adesso mi le ho finite, lunedì dovrei rientrare, ma non rientro perché ho avuto un problema, quindi non rientro. Ma sempre del piede? No. Problema con 730 che l'ho portato a fare, praticamente siccome ho avuto un infortunio sul lavoro, e mi hanno richiesto il CUD dell'IRAI. E questo CUD non ce l'ho in casa, c'è tutti i fogli delle visite che ho fatto e cose, ma CUD non ne ho, quindi devo andare per forza all'IRAI. Non so manco cos'è il CUD, figurati. Elia, un infortunio? Ma sei caduto oppure... Mi ero caduto dal furgone, mi sono fatto male alla spalla e al braccio. Cazzo già, ma a te ti hanno pindacciato, Sì, ma è cosa vecchia, mi manca, non è di adesso, è cosa vecchia, Praticamente è del 2015 questa cosa qua. E ha spulciato questa qua, dice, ma questa cosa ha incassato i soldi, però non ha fatto le... la documentazione, poi spetta a voi sapere cosa dovete fare e magari la collega si è dimenticata, comunque lo faccio fare adesso perché se no non possiamo scaricarlo. Eia, ho capito, sì è vero, tu eri caduto infatti 2015 mi ha detto, quindi di quella volta lo sapevo, sì, sono andati a spulciare, caspita, mazza. Io ho trovato una di quelle rottiballe che adesso vuole anche accusare il condominio perché ci sono, c'è il totale ma non c'è la partizione per ogni condomino, insomma vuole un po' di roba, non so se ce la faccio tutto il giorno a fare, no, se no sta per me andato ai lavori, quei lavori famosi di questa fogna che si intaggia, e non siamo noi i danneggiati, capito? Sono quelli di sotto, primo sottopiano e secondo sottopiano. Spero pare riguardi tutti, ma speriamo che sia vero, perché i soldi una volta che sono andati, addio, mi non tornano più. E ancora c'è qualcosa che non è perfetto, insomma hanno fatto tre lavori, abbiamo speso un saccaggio di soldi e ancora non sono convinti. Noi non paghiamo più nulla, nulla. Lo diciamo anche in condominio, abbiamo appena pagato tre lavori inutili, ancora avete problemi, adesso vi arrangiate voi, ve lo pagate voi. Capito? Ma il condominio è una brutta cosa, è bello abitare da soli in una casetta singola. Mamma mia. Ma una casetta singola, se c'hai problemi che devi pagare da solo, non è infatti uguale. Lo paghi tu e boh, se c'è un problema grosso ti mette a te. E comunque in casa piccola sta sempre meglio, in casa singola, al di fuori dal condominio. Non ti rompo le palle per il volume della TV alto, per il baracchino, ti ricordi che ti bussavano, se il figlio piange, e quel cretino del vicino tuo bussava in viva perché il bambino piangeva. E cosa devi fare? Una martellata in testa le devi dare al bambino. Ma guarda un po'. Faccia l'anima sua. Ah, era morto anche lui? Sono contento. Sì, è venuto un infarto. Lo so che non bisogna ridere alle spalle di morti, ma mi sa che se l'è cercato. No, non sono io, e non pensare che sia che la Giovanna deve fare a te. Ecco. Gli anatemi li hai mandato. Ah. Troppo nervoso era come tipo, Troppo nervoso e gli è venuto un colpo. Qua è arrivata la pizza, dai. Dall'aspetto com'è? Sembra buono. Già, adesso mi dedico alla pappatoia. Credo ci fosse Natalino. Natalino? Marco. Pomponio. Ciao, aspetti, vuole Alessia un secondo. Chi mi vuole? Alessia? Sono la nipote di Pomponio, ciao. Ciao Alessia, ben sentita, dimmi tutto. Per la cosa del gatto. Del gatto? Dimmi tutto. Una gattina che ha macchie gialle, bianche e nere. Ah, la state cercando di sistemarli. Gli avevo detto a mamma che c'erano dei gattini disponibili, ma lei ha detto no, bastano due, abbiamo già due gatti grandi, due femmine, non ne prende altri. Quindi niente, da parte nostra niente, dai. Conosci qualcun altro che può prendere questi gatti? No, mia zia sta curando una gattina di fuori, bellissima, la sta curando ma ha detto che non la tiene, non la può tenere perché c'ha già un bel di gatti, 5, 6, 7, non mi ricordo quanti ne ha. E quindi no, non conosco altri. Comunque chiedete in giro, al limite mettete sull'occasione l'annuncio che state dando gattini. Va bene, grazie. Yeah. Ciao Alessia, ciao. Bella voce alla radio. Grazie, ciao. Già. Antone, sai che ero rientrato, ho salutato sopra, l'ho rimesso, così per farlo funzionare se non si rovina, quindi dopo se vuoi. Hai fatto bene. Ok, dai che mangio. Già, mi dispiace che sia entrato proprio nel momento della pappatoia. Ma me l'hanno portata la pizza, l'ho fatta a trovare. Già, stai parlando troppo forte, sì. Ho detto, l'ha fatta tua madre la pizza o la vendita? No, comprata fatta da Lidl, non ne fa pizza in casa mamma. Non è di quelle donne che fanno la pasta a mano. No. Nemmeno nonno faceva così. L'impasto a mano, sai quelle si fanno tutto, la pizza a casa, la pasta asciutta e ce la vanno a casa. No, non è così, mamma. Nemmeno nonna, figurati. No, qua la faceva, c'è mia figlia che faceva così. Ehi, Vabbè, dai, adesso vedo se non mi viene la biocco, entro dopo, ok? Sì, vabbè, non so manco se ci sono dopo, mi sa che me ne esco. Vabbè Marco, ci siamo dopo, dai, buon pranzo allora. A dopo. Sì, ciao Antonio, anche a te, dai. Ciao. Avete ma che sta facendo il pranzo, ma è matto questo. Ho detto, sono matto, dice, se lo si saluta. Eia, no, stavo. Eia già, dai, ritieniti salutato, se vuoi uscire escitere. Guarda, il tempo è fresco, sta bene. Guarda, io ho sofferto veramente quei due giorni, soprattutto un giorno di caldo estremo. Non ne potevo più. Già, lì. Eia, certo me. Eia, adesso. Quella quanto le dici ha fatto bene sia per rinaffiare che per rinfrescare un po'. Ha fatto bene quella 4 ore, almeno ha rinfrescato un po' che arriva la canna. Vabbè, già ci sentiamo dopo, entro fra 10 minuti, 4 ore, che sto uscendo giù adesso. Il problema era portare giù il cane. Non ho capito. Ho detto il problema è stato portare giù il cane per fare i bisogni. Ah, quello sì. Così. Lo so. Mi sono messo sotto là però avevo paura dei rami. Sì, deve battere, vuoi ti aiuta. I lampi sono sotto a te, non per lui. Siamo stati ammazzati e non alzare un lampo. Infatti, è per me che stavo temendo. E la mamma ha tutti i figli di via di anche perché è bagnato in terra qui, immagino. E tu fallo bruciare a Marco, Marco ammazza Edo. Ha fatto mio figlio. No, Marco Condo. Ah, io ti curavi tu. Infatti Marco lo Fulmine è un caputteggio, ecco. Ciao, buonasera a tutti, mi hanno ascoltato un po' tanto. Io sono entrato oggi, sono una ciao riposo. Ciao, durante la settimana non mi sentite. Anche io domani sono a riposo. Cazzo, sono tutta la settimana facendo roba d'ufficio, guarda, c'è sempre uno sfigato di tutto. Guarda, adesso te. Prima mi è arrivata la cosa dell'acqua, come se non avessi pagato, io ho pagato una unica soluzione, l'acqua, ma la stessa bondetta non l'acqua. Ho pagato l'unica soluzione, l'anno scorso mi è arrivato da pagare, di nuovo. Sono dovuto andare all'ufficio, sempre rotto di palle, no? Con la bolletta, cercare la bolletta, curare. Alla fine poi l'ho trovata, stavo impazzendo perché io le metto nelle cartelle, però questa cartella l'avevo messa dall'altra parte e quindi non riuscivo a trovare. Stato nell'ufficio, sono andato alle 8, alle 9 meno quarto me ne stavo andando e ho fatto anche la domanda per avere il risarcimento delle, diciamo, di quello che ho pagato in più. E me ne devono dare loro invece che la diceva per il prossimo anno, ah, ma pagarla sì, ma per pagarla a voi il prossimo anno, va bene, ne di una. E sì, sempre così fa, ma l'ufficio tributi si è andato qua via macchina. Sì, sì. Ah, poi oggi ho bussato il 7.30, già da un mese fa, e mi ha detto che come lo faceva, come mi faceva il 7.30, mi telefonava e andavo a firmare a pagare. No? E ha telefonato praticamente, non ha telefonato, io avevo dato un appuntamento fisso, poi mi ha detto se ce la faccio più guardi il telefono. Io sono andato il giorno dell'appuntamento e stavo pensando a quest'ora, ma chi te l'ha dato l'appuntamento? Ma è sicuro che ha capito bene, beh guardi, io c'ho il fuso, non è che sono su un altro, ma come il fuso, sì è vero, allora aspetti che chiamiamo la collega, detto, ma qual era quella biota? Telefonano, vabbè forse hanno capito male loro, non so che non si è negata. Senta scusa, se ce l'hai scritto pure nel coso degli appuntamenti, non è che hanno capito male di reati più l'appuntamento. Vabbè, ah, comunque beh, ascolti, venga domani. Stavo per andare, ero già pronto, mi telefona e mi ha detto che praticamente dovevo andare al condominio e siccome ho avuto anche un infortunio nel 2016, devo fare questo scarico di questo infortunio. E non si trovava questo modello punto del Dinai. Praticamente ha detto che serviva a fare questo, e come faccio? Che te riferisci adesso, lo dici adesso io lunedì devo ritornare al lavoro, cosa faccio? Insomma lo deve fare perché lì ha già incassato i soldi e detto praticamente dobbiamo scaricare. Beh, fatto sta sa che adesso domani devo andare a Lina pure a prendere questo foglio, e l'ufficio è l'ufficio del condominio, perché ha messo il totale di tutti i lavori, no? Però non ha messo quelle partizioni, quindi da lì riserva la partizione mia. Oh, ma dite all'ultimo momento, quindi c'è tempo fino al 5 per spedire il cutting e poi non c'è più tempo, capito? Ho spedito per darti il rimborso all'azienda, allora devono spedire entro il 5 di luglio, perché c'è stata la proroga, se no era entro il 30 giugno. Ho fatto 5 giorni di proroga, ma il mio è già spedito, è già arrivato anche all'azienda. Senza l'ultimo momento c'è un'ambizione che ti andiamo a fare i documenti. Certo, devi andare a linea e farti fare il certificato, si chiama appunto, ma è un certificato appunto di come tu sei stato un infortunio e hai percepito la parte del che ti danno loro, no? Come infortunio, capito? Per poterla scaricare. All'ultimo momento c'è un'ambizione che... che non c'è, ma a tempo il giorno stesso di farlo, che praticamente me lo faceva a giugno e mi avvisava lì, però mi ha calcolato pure il 29 alle 3 me lo qui, se me la devi scrivere di maniera da guglione da cui mi sembra che tutti da risolvere, ma se non c'è lì come fa per dare l'appuntamento a quest'ora? Ma questo cos'è, un caffè? E allora? No, già io prima lo portavo al caffè, poi pago un commercialista proprio, capito? Pago 30 euro un commercialista e ogni anno non ho problemi, lo porto tutto per tempo, ci guarda tutte le cose, se mancano mi avvisa, capito? Non ho più avuto problemi, il CAF sono fatte da gatti, capito? Fatte da gatti. Un giorno non ho tempo, un giorno c'è quello, un giorno c'è quell'altro, poi comunque stai attento perché c'è il tempo, sino io entro il 5 lo devono spedire in azienda, perché sennò non ti rimborsano niente. Cari figlioli, pace e bene a tutti. Ciao carissimi. Ciao Gianfra, e anche a te oggi ho sentito, mi ho acceso adesso e la prossima non ci sono, mi trattengo giù al lavoro, quindi oggi sono a riposo, non stavo riposando un pochino, a te se c'è qualche superstite in questa radio, ho visto che qualcuno ancora c'è, dai. Ciao Gianfra, buonasera, avanti. Ancora vivo, sì. Pensavo eri morto tu invece, no? Pensavo eri morto, capito? Se ti sento dall'altra parte ti metto la portante. Quando il gatto non c'è i topi ballano. Così è, ma io sono sempre ascolto, però non ti preoccupare. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. No, non ci sono l'altra settimana, no. No, ma non mi conviene rientrare, capito? Allora di pranzo per tornare ad andare, quindi faccio un po' una tirata, rimango lì, rientro la sera alle 7, alle 8. A volte non rientro per niente, quindi sono stanco, il radio, poi quei giorni di callo, questa stanza. Siamo arrivati, poi c'erano 25-26 gradi, cosa? Cosa stai qua dentro? A morire di gatto. Adesso oggi mi c'è un bel fresco, quindi ho accesso. Ok, avanti Gianfra, e allora? Buonasera figlioli, buonasera a quel peccatore incallito di Marco e a Gianni. Niente, io ho appena finito di dare una ripulita col trincia, l'erba secca, così l'abbiamo abbassata, abbiamo un po' di pulizia, mi ho fatto una bella doccia e adesso ho detto vediamo se c'è qualcuno, qualche superstite, e vi ho subito sentiti, quindi con piacere vedo che è ancora tutto in funzione, ecco. Ma quest'anno sbaglio, non c'è manco propagazione, ho sentito pochissimo. Ma propagazione di che genere ho già, propagazione così a livello di 27? Io ti ripeto, era tutto staccato, qua c'era anche l'antenna staccata, l'antenna staccata, lo staccantenne. Ho riattivato tutto poco fa, mentre mi stavo dando una sistemata, ho sentito da te a Marco chiacchierarvi e quindi sono entrato, capito? Allora, io avevo anche il wifi che non mi funzionava, oltretutto queste due settimane di ferie le ho passate tutto di manico sushi, il wifi che non funzionava, stavo lontano con Fatweb perché non me la riallacciava, non mi ha fatto fare mille prove, mi ha detto che mandava il tecnico, poi non l'ha mandato, guarda, allora ti ho telefonato e gestore. Me lo sto dicendo, no, ma guardi, me lo sto dicendo, se entro oggi non mi risolvete il problema, io cambio gestore. Io una sera stesso ho risolto il problema. Mi questo come sa Gianfranco, lo sa, vai Gianfranco. C'è qualcuno che vuole entrare, si sente sotto gente. Sì, è l'unica mi lasciarli perché spesso non mettono mano alla configurazione o lanciano aggiornamenti, fanno per, insomma ci sono tante cose. Tra i peggiori penso che si possano annoverare la team X Telecom che ne combina di cotte e di crude, anche in bolletta. Quindi lasciamo perdere. Io sono con... ho sganciato tutto da tempo, oramai perché mi hanno... stavo per portare in tribunale, un altro po', tutti alla team. Sono passato a Lincoln che c'è da anni, bassa, lenta, tutto quello che vuoi, però non ha mai perso una connessione in tanti anni e quindi non va molto. Mi soddisfa, vado intorno dai 4 a picchi anche di 10 a volte e quindi va bene così. Non è adatta per città, ovviamente, perché in città uno si mette la fibra ottica oramai, cioè c'è un po' dappertutto, è molto più veloce, più tranquillo, eccetera, però a me va bene. Claudio, vedi un po' se sotto si sentono dei rumori, c'è qualcuno che parla, forse vuole entrare. No, non sento niente, certo, senti qualcosa. No, negativo. Io pensavo, no, poco fa senti tu, però pensavo fosse anche da Gianfranco, che magari mi sembra stata la riaccenda. E comunque si sono attivati subito, capito? Io non sono uscito per aspettare il tecnico e non ci è venuto a casa, devo richiamarti e mi ha detto guarda faccia questa prova, le prove le ho già fatte, lui che lì mi fa fare le prove, ho fatto no, no, la rifaccia perché abbiamo cambiato canale adesso. Facendo questa prova si è attivato. E quindi colpa loro, non colpa tua, non so. Va bene, va bene. Marco, mangiare? Eia, fra un po' finisco, dai. Allora, notizia dal fronte, pare che il vicino di Natalino, quello in fondo al vicolo, ci sia messo l'antenna nuova, tutto nuovo, quindi per adesso non lo sta cercando. Abbiamo partorito, quindi mi sono perso qualcosa. Eia, Natalino c'era ieri, così purtroppo io sto andando poco. Millomi, i malanni. Carragiati, non stare a petto nudo. Meglio così, almeno non ha problemi di rottura di scatola, capito? E vabbè, ok. Meglio così. Lui se entra ci farà sapere. Ok, avanti Gianfranco. No, forse preparazione, devo essere spagnoli perché anche io quando stavo parlando Gianni, ogni tanto sentivo pivi, quindi c'è preparazione, però devo essere un FM. Sì, roba sotto, non mi interessa, no, non disturbano nessuno, dai. Sì, qua sono 9. No, qua molto meno. Io sai, c'è un ascolto che fa paura. Cos'hai detto già? Ho detto che sarà sotto casa di Gianfranco. No, beh, lui in quella valle c'è una ricezione micidiale, molto aperto alla propagazione. Sicuramente ci sono cose che sente lui e non sento io. Avanti, buonasera lì, avanti, non che abbiamo l'onore di parlare. Ciao Alessandro, mi hai sentito, dai, doppio room in compagnia di Claudio Spalviero, di Gianfranco, avanti perché... Ciao Alessandro, buonasera, mi hai sentito? Ti ho sentito qualche altra volta, sono ricordo, Claudio Spalviero da Sassi. Avanti Gianfranco. Sì, buonasera Alessandro, Gianfranco da Sassari. Ti ascolto abbastanza bene, dovrebbe essere un S9. La radio più che consentita. Ancora te se mi ricevi perché io sto andando sempre a potenza molto. A te Alessandro. Ragazzi, vedi il bidone. Ciao. Massimiliano Bondò, sarà avanti. Io ti ho riconosciuto. A tutti i voti tu, io ho già posato, a tutti i voti, a me futti tu. Io voglio dire, vabbè, si chiama Alessandro, facciamo parlare come Alessandro. Inconfondibile la tua voce, non riesci a fare... 10 e no, sì, allora può darsi bu. Poi sì, ora può sapere, la brava si vogliava. Sì, ciao Massimiliano. Per un po' non ti ho sentito, lo sai, perché c'era quello spagnolo, ha dato una sparata a 9, chiamando e ti ha sofferto. Comunque adesso vediamo un po' cavata un pochino, perché sennò non segnalo con io perché sono arrivato. Sapeva che io mi stavo trattenendo al lavoro, quindi va bene. E tu, Natalì, mi novità, quindi a parte questa, tutto il resto a posto. Sì, tutto a posto, il computer mi si è crepato e me l'ho dovuto rifare a nuovo. Mamma mia, che computer, oh, mi pare che un mese sto lato. Anzi no, bugia, l'ho acceso l'altro giorno per vedere appunto la busta a paga, la creatura di stipendio, se l'ho tutto in ordine. Dopo mi ha girato, sarà quindi di che sto lato. Sì, quando l'accendo, se accende, accende, se no, ma è mio nuovo nuovo. E se no, chiamo Luca e ci si lo butta allora. Andava bene, vai già. No, il mio, la persona che non funzionava il computer, invece era la 10.7, che non stava andando, era wifi bloccata. Poi ho provato il telefono, funzionava manco quello, 2 settimane qui ci sono fissato la tariffa. Cioè, vendi, prima che facendo prove, ogni tanto ti chiamo per fare le prove, poi alla fine mi sono scocciato e ho detto, se intruci, non mi aggiustate lo wifi, io sto cambiando gestore. La sera stesso funzionava. Non li conveni, capito? Bisogna sempre minacciarla a questa gente. Bisogna sempre minacciarla. E a me mi hanno lasciato senza connessione lì a Isola Rossa lo stesso. Con appunto i soldi del telefono, io ho il telefono, faccio tutto da lì. Capito? C'è il credito, anche mi pare era 25-30 euro. Il suo credito è terminato, ma non mi siete, io non può mai terminare perché deve rimanere sempre chiuso per lavoro. Ho telefonato, vediamo, le facciamo sapere dopo, e guardi, mi attivi immediatamente la linea perché io ho 26-27 euro di credito contro i 10 vostri. La cosa, l'ho detto, non è scaduta perché scade fra 8 giorni, quindi mi attivi, se no sto immediatamente dando la disdetta del contratto e passo ad un altro gestore. Ah, mi pare che sono passati nemmeno un'ora, mi è arrivato il messaggio che il telefono è riattivato, che c'era stato un disvido. Ma che sai niente, disvivi? Ma il fatto sta, se non ti fai sentire, se fai il debole, non ti vale di niente, capito? Io sono stato educato, se non ci sto più, poi alla fine mi sono rotto le scatole. Infatti, sempre nell'ambito dell'educazione, ma dico, cioè tutti questi, perché un call center, mi già, ho già messo di sia, capito? Perché poi mi hanno telefonato dicendomi appunto che il mio numero era uguale, ma scusi, ma come fa il mio numero a essere uguale ad un altro che ha terminato il credito? Ma sta scherzando? Se c'è nome e cognome, è 20 anni che io lavoro con la team, lei mi sta dicendo queste fesserie. Questo che non succeda più, perché se mi lasciate senza telefono durante l'ora di lavoro, ho detto, cambio immediatamente gestore. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi problema, mi mandate un messaggio, se dovete disattivare la linea per problemi vostri, capito? Mi mandate un messaggio e io vedo di organizzarmi, perché io lavoro fuori e ho bisogno del telefono. Perché non succederà più, perché altrimenti io cambio subito immediatamente gestore. Con le minacce si ottiene tutto. Con i giaffi si ottiene tutto. Comunque già, ci sono stati certi giorni, non dico da poco, un po' più in là, c'era la propagazione dalle Call Italia, era un bijou, quindi a giornate c'è propagazione buona, può essere o dall'Italia o da Europa e dintorni, dai. Vabbè, ma dove, qua? Oppure vado alla terra? No, manda laterale, chiama gli altri. L'altra volta abbiamo parlato con l'Italia, ma ti chiamavano da nord, dal centro, dal sud, dalla Svizzera, come niente. E c'era anche Fabrizio mascherato con me facendo DX. Sai, mi piace più l'Italia perché le lingue non le conosco bene, dai. Perché sei un maniaco. Ciao Pla, comunque salutoni. Però mi sono dedicato di salutare, sto facendo cose, no? Ciao Antonio, non ti avevo manco sentito, scusa Cecilia, che tu, ciao, buonasera. Sì, Ale, sì, un secondo qua, c'è una scommessa, come chiamavo, anzi come chiamo io a Baracchino, tuo Pomponio, dillo tu. Io a Baracchino ti ho sempre chiamato Pomponio. Sì, ma non me l'attivo normale, Alessio o no? Sì, Alessio Pomponio. Ecco, perché no, è rimasta secca Alessia, dice no, non pensavo che mi chiamavo così, ho capito? Quindi cosa ha fatto? cos'è? È rimasta troppo buona. Che è rimasta male. Come si è persa? Ma lei c'è che lei, Giovanna Minoretta? Sì, Giovanna Minoretta, eh. Alessia Minoretta per esattezza. Ciao, faccio Giovanna. Ciao, Alessia. Ciao, faccio tua madre. Sì, sì, sì. Tuo zio purtroppo si chiama Alessia, ho capito, quindi stai attento. Non so neanche come mi chiama mio zio ormai. Hai visto? Non so. C'avevo ragione? Sì, c'avevi ragione. Ah, bravo, c'è bravo. Io sempre lo chiamo Tromboni, Montopompa e tutto lo chiamo. Una volta che Alessio. Va bene, va bene. Allora, Gianfranco, Gorix, Massimiliano, andato via. Vai, Natali. Ciao, Pomponius. Ciao, Natali, saluto anche a te, ben sentito. Me l'hai scucito. Adesso vado un attimino giù a ammazzare Cristiano, poi salgo. È a 380, ok, vai, vai. Dopo quello di Bifonte parlando, cos'è? Pompendese. E chi io? Se lo vende qua. Vai, cosa pompando? C'ho 3 watt. Sta canna. E anche qua 9,20, te l'ho già detto. Vai, se pompendi tu, a futti dimmi. Non ti sento così forte. Da me? Aspetta, perché tu non ci credi allora? Guarda, adesso sto pompando. Pompa, Paolo, così ti chiama quello di sotto. E ti picchia a punto. Ehi, mi cuglio, ve lo sposto a Bronto. Vabbè, 10 minuti con l'X e poi già rientro fra poco, dai, che vado un attimo giù a Giampino. Ci vediamo dopo. Saluto a tutti. Ciao, ciao. Anzi, adesso mi metto un kilowatt proprio per distruggere tutto qua. Te l'ho detto quando vuoi lineare, chiedimelo, ce l'ho qua. 100 watt, di una passata, mezz'ora, di musica. Sta tranquillo che si incendia il coso, il ricevitore. E allora, musica per sognare, radio giovane, di voce. Se te l'ho detto, quando vuoi lo chiedi, è qua lineare, funziona a posto. Non c'è problema. Ci stiamo fra poco, là, fra 10 minuti 4 ore, adesso ci devo giù la luce. Ehi, ciao, ciao. Ciao, Vale, ciao. Stavano comunque segnale il tuo 9,20, 25, era lì. Capito? Perché prima eri a bassa potenza, quindi lui ti sentiva sempre a bassa potenza. Avanti, Gianni, doppio router, quindi cosa mi racconti? A me tardino mi ha divido. Entro il 5 devono spedire tutto. Gianni non riprende, Marco. Gianni? Ma Gianni, l'apparato deve essere. Sono al telefono, secondo, raga. Va bene, va bene. Riprendi tu, Marco, riprendi. Quindi niente, non c'era nessuno da poter chiacchierare. Marco Giulio sta entrando. Giorni fa è entrato. C'era anche Natalino, abbiamo fatto una chiacchieretta, però ci stiamo trattenendo poco perché o io sono drumito, o mi viene l'abbiocco, o sto facendo altro, leggendo, così. Invece Perla ha voluto assaggiare il terreno, c'è stato un attimo di panico e poi così, saluti, vedi, come che niente fosse. Ma problemi questi sono, a me non mi interessano. È sempre acceso qua, io ascolto tutto e quando sento qualcosa che mi interessa pigio il pulsantino per mettere agli atti. E buh, tutti gli resti, a me non me ne frega niente. E ho detto anche appunto che volevo organizzare un'altra frequenza per parlare di... ci voglio le radio omologate, siccome io non ne ho, non ci parlo, poi ripeto, ribadisco quello che ho sempre detto, ognuno fa quello che vuole, decide quello che vuole e si assume le proprie responsabilità. Io mi assumo le mie, quindi siccome non ho radio da poter dedicare a quella frequenza, come dice la legge, preferisco ascoltare con le mie radio amatoriali, però non parlare. Ok? Perché non me ne frega assolutamente niente, fate quello che vi piace. No, era così, per curiosità, dai, vabbè, era fermo, quindi ho voluto accenderlo per farlo funzionare, però no, non lo lascio, soprattutto i giorni feriali. Ne abbiamo già parlato noi, Marco, quindi non ti devo ribadire ancora ciò che io penso. Ti ripeto, io per arrivare al vertice ho dovuto fare sacrifici per comprarmi tutta la radio, per fare ciò che ho fatto, quindi lo faccio anche gli altri. Io radio omologate non ne ho per parlare di, capite? Non è come ti dici, ma quindi perciò non è che ci devo piangere per fare le chiacchiere buca, no, no, non mi frega niente a me, assolutamente, però chi le usa si assumerà le proprie responsabilità. Tanto, cosa, non ci sono più parole, oramai è stato detto tutto, è stato fatto tutto, perciò va bene così. Ok, tattalino, tattalino, quindi adesso voglio attaccare l'amplificatore per distruggere il rione. Allora, bisogna distruggere il rione, se non ci riesco con questo gli tiro una fucilata a palla. Cazzo, con quello manco stazionari hai, eh? No, Natalico, la fucilata a palla manco le stazionarie si vedo. Nulla si vede, non si vede nulla. Si vede solo il buco nell'antenna. No, l'antenna va rendermi direttamente, chi va l'udire il sapi blu. Non avevo pensato no, a trattare un dramma, no? Per mettere le staffetture, qui ti mettevi a distanza due colpi al muro e facciamo i buchi proprio con i sassi nuovi. Cazzo, si pare che c'è distanza per rendere il domani a giugno. Sì, siamo guati noi. Oh Marco, amico tuo, sai che ho fatto la macchina nuova, me lo sai? Ah, l'ex amico mio, e che razza di macchina ho pigliato? È una bella macchina, la nuova C3 si è appresso, bella. Oh, finalmente hai smesso di avere catamarani e montare i garaggi. No, no, questa volta batta, ormai lavoro è fisso, capito? Ma nuova nuova o nuova usata? Nuova, nuova, nuova, nuova, aziendale nuova, nuova, 1000 chilometri. Almeno una macchina normale, no? Queste classe A, queste macchine che ha avuto mille problemi. Vabbè, meglio per lui, dai. Io no, non voglio male a nessuno, già lo sai. Meglio per lui che si mette in carreggiata. No, oh, bella sì, bella. Questo lì, vabbè, se non mi sono, non mi ricordo quale, che sono sceso a Sassari, sono passato a Piazza di Segna per il mio caffè. Due settimane fa, sempre. Due settimane fa, sempre lì al posto di combattimento, era, diciamo, il capitolo di fronte, là. E niente, e niente. Bella, no, bella, bella macchina, nuova settimana, bella macchina. Bella anche esteticamente. È un turbo diesel, mi pare. Va bene, va bene. Ok, Gianni, hai finito il telefono? Il colore è sobrio? Il colore è un colore scuro. Bella. Eia. Eia. Mamma mia, scuro, vabbè. Sai, per il caldo, più scuro è peggio è. Mamma mia, poi nera, tira il calore ancora di più. Terrificante. Eia. Io sono in magliette, boh. Qua ci sono 24 gradi, c'è fresco, poi questo ventilatore a parete, a soffitto, sta facendo anche arietta fredda. Io mangio alle giorni prima, ma come hai fatto il tuo lavoro con quel caldo? Non sei schiattato? Dimmi da Marco, ho paura. Guarda, io il tuo lavoro nella zona del mare, siamo arrivati a 38 gradi, a 38 gradi. Però la sera c'era più fresco rispetto a Sassari, quindi rimane pulito, capito? C'era più fresco, c'era più fresco, ma non entravo era una cosa, la paura, la paura, no? Veramente un po' così. Lascia immaginati qua, la giornata è fresca, intanto con la frattata siamo 22 gradi 5, la giornata è fresca, perché qua c'è il sole tutto il giorno, eppure c'ho sempre la voce sollevata, perché c'era la barriera, capito? Fumo una sigaretta, quindi tengo la finestra aperta. Però quei giorni scorsi, no, finestra chiusa, tutto abbassato, c'erano intorno sempre, detto mia moglie, ai 25-26 gradi in stanza, come fai a stare qua dentro? Assolutamente non fa. E tu Natali, Paolo ci avevi, vedi dove sei tu c'è più fresco secondo me, perché i muri sono molto più grossi, tu quel vicolo lì dove abiti tu penso che sia fresco, no? Sì, però se c'ha 24 gradi lui, io ne ho 26 qua, quindi c'ha più fresco Marco, oh vabbè che io c'ho anche il ventilatore spento adesso. Figa. Ho preso uno di quegli orologi che è orologio, data e termometro, è radiocontrollato, cioè prende l'ora dall'orologio atomico che c'è a Francoforte e loro trasmettono questo segnale di DCF77, praticamente è un segnale radio a 77 kHz, viene ricevuto dall'orologio e gli aggiorna all'ora proprio precisa, perfetta. Sono andato stamattina e non ha già avuto, perché me la volevo comprare anche io. E sai cos'è? Quella offerta era già finita. Io ne ho trovato, ce n'erano tre e tutte aperte, poi gli hanno rubato le batterie da dentro, che sono batterie stilo. Però la mia l'ho controllata, lo sportellino c'era, insomma, le istruzioni c'erano, non che mi servissero, ma l'ho presa. Ma non ne ho viste altre, Natali. Me lo potevi dire, non ci andavo neanche da Lidl. Stamattina sono andato, che te non veniva. L'altra volta altre tre o quattro c'erano, un po' tutte aperte, la gente che ruba due batterie stilo che manco il rischio, boh. E Claudio, ti ricordi il vento di tre giorni fa o quant'era? Quel ventaccio di notte? Sì, lo so, sì, perché non l'ha fatto. No, solo che un giorno accendo il baracchino, dopo col vento, c'era stato anche il temporale, non aveva piovuto forte, silenzio completo, alzo il volume, non si sentiva neanche il fruscio, premo un istante la portante e va a fondo scala, ho detto, Gesù, danno ho fatto, se non che mi ero dimenticato che avevo staccato l'antenna per evitare scariche statiche, quindi l'ho riattaccata e tutto a posto. Un casino il vento. No, io una cosa che ho fatto proprio, sono salito su già a controllare tutto a posto, con quelle fasce attiranti che ho a carrucola, come si chiama, a tesare, non penso più che si muove nulla, l'antenna 90 va sempre a posto, e la verticale va messo qua il sistema, quindi quella piega ma non spezza, come mai, capito? La verticale è uguale a me, piega ma non spezza. Figa. Chissà come sarà stata la mia ragazza alla rotonda, quel vento gli avrà stracciato tutta quella casupola che si è fatta, e poi la pioggia, ma avrei preferito andare in quei ricoveri, almeno hai un letto, stai al caldo. Ma che sei sparito? Io? Ma di segnale o di radio? Di segnale di radio, Natali, nulla hai notato tu. È sparito. Allora, devo, è il PL, Millo, allora, devo saldare meglio il PL, o per meglio dire lo devo rifare proprio, sta cominciando a staccarsi il centrale, dai. No, è il centrale del PL, si sta senza stagno. Ah, te lo buono lo stagno, Oh signore, mi tocca andare a fargli il PL adesso, Vai, tu Natali, vai. Inizio si dimentica già di munire lo stagno. Magari invece di munirlo nella pasta stagna per saltare la posto diventa un burino. Beh, tu si usa. Pittina il tuo Marco, non li posso fare né casa né lana. E sì, però, mi pare troppo asso. così va meglio. Sì, no, non ho fatto niente qua, sempre con quei 26. Ehi, vabbè, però per mettere i vatti giusti. Sì, lasciamo così lo stesso, sono 10 vatti. Vabbè, fa due chiacchiere. Gappa gappa. Comunque l'antenna è sempre a posto, funziona. Lavoro a regola d'arte, con fatica, ma già l'abbiamo messa l'antenna. Già lo credo. No qua qua qua, no cia cia cia, come dice qualcuno. No, ma la pagadore. Allora, fateci voi o non parole, ma sai niente, non avete fame, poco mi piace poco. Ovvero? Ah no, l'ho più rotto. Ma sono voluto che la ruota di colore qua, c'è un volume basso, non è soltanto che da te, non mi piace niente, non avete fame, perché ovvero? Non però so proprio, non avete parlato. Poi, allora, tantanino, stavolta cosa fai, ce ne andiamo in giro. Non lo so, mia moglie è andata a una chiesa che c'è lì, Alghero, non so, tutti in grefa, sono andati in pugna, vai, vai! E io mi sto facendo la scansione del computer dell'antivirus. E poi cosa è incazzata, chi vuole pucciamma tutti i gruppi, che mai non vanno. Ma chiesa di Valverde, sa? No. E la festa di non so Gugaro. Sono andati tutti in grefa in pullman. Vai vai! Dalla chiesa sono andati. E allora? E ha tutto quel calore, approfittire non c'è. Ma già torna per l'ora di pranzo. Devo portarmi anche il cane in carta oggi, chi non veglia. Boh. Anche tu stai pranzando come una tappignana la sera. Allora, scansione completata, non vera nulla. Andare. Aspetta che lo... che lo tolgo. Fatto tutto. Ok. Buonasera, rialzato. Via già bravo. Che ore sono? Che ore si sono fatte? Le 7:10. Bravo, le 7:10. Sono buon coso. Che sto fai da me laggiù. Oh, yeah. La gente presto, speriamo che non piova. Poi adesso mi fa per uscire io, perché non devo voglio stare in casa, da buio. Non ne parleremo. Natali, adesso c'è il modello 730, perché mi sta dando problemi. E guarda, tutte le ferie così mi si può passare. Ho dovuto chiedere una giornata in più, perché dopo essere lunedì. Perché praticamente non si trovano in conto di un'infortuna che ho fatto nel 2006 e sono stato risarcito. E vabbè, anche che se ne vogliamo parlare, la ditta non mi ha dato una, mi doveva dare il 30% e non mi ha avuto la rinuncia. Mi ha dato solo il 70% dall'infortunio. Quindi immaginate, mi tassano anche qui. Ehi, ero grido, bastardi. Sì, vabbè, ma a prescindere già. Beh, sali lunedì, ma in fretta però, mi dire che fatelo subito, giornata è spedito, guardate, la copia è spedita, perché c'è tempo fino al 5 luglio, sarà un casino, capito? Avanti, già fra, tutto a posto? Ma, sembrerebbe di sì, sto parlando con i Cagliari, sembra che la strada sia stata ripristinata, però poi sull'Italia proprio non va. Boh, mi pare una cosa un po' allucinante, veramente è strano. Tra l'altro questo qua era col telefono, allora non ho potuto esprimere io con quella fare. Comunque è andata bene, da almeno un po' di radiolazione per la Sardegna. Ce l'abbiamo. Quando ti attrezzi, Claudio, si è passato. Dove? No, non farò se mi capisciamo, ma no. No. Guarda, io se tutto va bene, penso che prima dell'inverno ne smonto anche tutto là da sul tetto, perché di volta si era qua, quindi non ho nessuna intenzione di ripristinare niente. Capito? Quindi tolgo tutto quello che c'è, lascio all'ultimo solo la manta, va, che è facile toglierla, ma devono venire gli amici a dare una mano, piegare tutto, conservare tutto in garage. attrezzare, non è detto fuori da buca, no. Io già faccio una corrente con me stesso, quando dico le cose le faccio, per me, ascolto, per carità, no. Anche se devo fare una prova, la prova l'ho fatta con Stefano, però no, non mi interessa più, continuo a fare il CP, quando lo posso fare, per il resto, meno problemi, meno problemi. Si è deciso allora trasferimento? Sì, beh, il trasferimento lo facciamo, perché questo rimane attivo, però non volevo vendere la mia moglie, quindi la teniamo, vediamo cosa fare più tardi. Per il momento ci andiamo un po' più in alto, più al fresco. Vabbè, adesso tu mi sei stata a me, la casa inglese, le 7:02 di torna, torna anche qui, detto lì. Il problema, magari, vabbè, se in altura, se allo stesso, se come gli stessi segnali del grattacielo, se in altura va anche bene, no? Ah, ma è la zona che mi ha detto? Sì, molto più alta già. Molto più alto, se sale lo vedo tutto intero, vedo per mia zona. Sì, sì, già fra lì. Non noto con niente qua, non trasferisco niente, già. Assolutamente, non trasferisco niente. E quando devo modulare, devi uscire dalla sassa? Quando? Quando devo modulare? No. Non, per il momento non faccio. Ma quanto ve la lascio, no? Io ho messo tutto. Questa stanza la lascio così com'è, mi porterò via il 440, la linea del 440 e basta, capito? E qua lascio il 430, vediamo un po', è ancora tutto da decidere cosa fare, però il coso è quello, capito? Lo lascio tutto qua, non porto niente, non so come faccio, non porto niente lì, però sono amato per basta, ma qua è una live book. Televisiva da 9 euro, un pezzo di cavo, lo metti sul tetto come fosse un'antenna TV che sicuramente dovrà mettere, e sei a posto, che te frega, poi se sei in campagna, c'è un giardinetto, eccetera, ti metti anche un tifolo disgraziato, se altro va benissimo, cosa te ne frega, non è quello da fuori. No, ma potrei tranquillamente togliere queste e montarle lì, già ce n'è di gente per... Potrei fare il lavoro fatto a regolarte, capito? Ma non mi interessa più, Giaffano, perché non c'è nessuna passione, capito? Non l'ho mai avuta, quando ho cercato di farmela venire la passione me l'hanno fatta anche passare, quindi automaticamente non mi interessa più niente. Mi dispiace per le radio, perché ho due radio nuovissime di ultima generazione, però le accendo, sì, non è quello il problema. Anche le VLU, insomma, 275H, 475H, sono, tra l'altro ne uno anche più. L'avevo messo in vendita e lo volevano a regalo, allora rimane qua. Già lo sai cosa valgono quelle radio. I due basi, la tessatura rimane tutta, però no. Le antenne non me la fotti nulla, non devo dormire tranquillo e sereno, poi ho un impegno grandissimo al lavoro tutta l'estate, in inverno abbiamo dei progetti da prevalente, o anche, non so se avete sentito la televisione, c'è stato uno sostanziamento dall'assessore per lavori pubblici, quindi mi butterò sul lavoro e basta, cioè, il baracchino è bello e fai due chiacchiere eccetera, ma poi tutto il resto, come diceva Franco Carifano, è noia. Comprovendo, metti tutto in vendita. No, già, bisogna mettere in vendita, per favore, se la vuoi te la me la comprare, no. Ho speso anche troppo il radio e tutto il resto, va bene così, c'ho tutto quello che serve, anzi anche di più. Gianfra, a calcoli fatti dovrei andare a calcoli. salvo complicazioni, io nel 2000, inizio del 2021 avrei scelto in pensione, doppio inizio, quindi gennaio-febbraio. Aiuto, ci andiamo insieme e andiamo poi in Piazza d'Italia dal mangiare il piccione, ti va bene? E certo che ci faccio il panchinaro, Piazza d'Italia, capito? Appassionato. Tutti gli spostamenti durante le 10 ore e 40 che poi con rientro diventano 10, capito? Con rientro, con gli straordinari. Come ti va? A 68 anni ancora metterti a guidare un mezzo del genere, chiuso così, ma non esiste. Quindi cosa c'è? Forse questo vuole uscire, che ore sono? 7.25, ma adesso che cazzo, quanto è puntuale, allucinante, già piazzato nella porta, se vai c'è l'orologio in tetto a toccare. Purtroppo te lo dico con la certezza, esattamente con l'ultimo scatto che c'è derivante dalla legge Fornero, siamo arrivati esattamente a 67 e 8 mesi, una cosa del genere. Il prossimo scatto, che sarà non ricordo tra quanti anni, comunque sia ogni 2, ogni 3 anni, si andrà, se qualcuno ci mette mano, praticamente a 68 anni e 7 mesi, una cosa del genere. Perché c'è quello scatto che interessa a tutti, perché te lo dico perché il mio collega che è del 50 praticamente, e quindi è andato via a 67 anni e 7 mesi, e gli hanno detto loro che poteva andare in pensione, ma prima no, quindi l'età è quella, i 65 anni non esistono più. Se tutto va bene siamo rovinati. Gianni a posto Gemma. Quindi a me Gianni dobbiamo trovare ancora 5 anni. No. Anch'io. Altri 5 anni, cioè altri 5, altri 8 anni. Perché io ho 60, tu penso che hai la stessa mia età, del 57, Natalino 7. Sono 8 anni. Io mi spavento sempre quando la gente non se ne è ancora accorta, lo sono fatto questi signori. Hanno aumentato l'età pensionabile, ragazzi, con delle pensioni che secondo come le calcolano, secondo un po' prima che le calcolano contributive, ci sarà da ridere. Ne stavo parlando proprio con uno che le fa le pensioni e mi ha detto, boh, anche lui si meraviglia che la gente non ha ancora capito dove siamo e cosa ci succede. No, io sono Monteggiani, tu sei Monte Natalino. Capito? Quindi non avremo ancora di farlo. E vabbè. Vediamo. Dai, io mi allontano che c'ho il cane che vuole uscire, non capisco perché. Non lo so. Porto il cane, se ci siete, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo. Ok, ciao Cla. Ciao Claudio, a dopo. Sarà fare un pc. Quindi, si salvi un po'. E adesso faranno le lezioni, mi ramparano in tutto in terra e torna a 60 al Vincane, se non a 60. Gianfra, a 67 e 7 mesi, come mi hanno detto a me, una cosa, guarda, boh. Lo so, c'è il mio collega, infatti, che lavorava da tanto tempo, c'è anche una buona contribuzione, ma è sempre quello. L'unica soluzione è avere 41 anni, quasi 42 di servizio, allora puoi andare prima. Però chi è che ha alzato a quale che ci arriva a 42 anni di servizio? Dovresti essere entrato da ragazzino, se non c'ha la contribuzione da ragazzino, no, va bene, ma se ce l'hai che hai studiato tra una cosa e l'altra, insomma il problema rimane. Se vuoi volare di vecchiaia e andare per forza sotto la data. È un casino, è una cosa che siccome ancora ci sono i primi che stanno andando a 67 anni in pensione, poi insomma sarà un bel casino, e la gente non si accorge, non fa finta di niente. Sono io e loro se la godono. Se non si ribusseggiano, ma come ci sono ben diricosi, si devono rivoltare. Ma mica siamo in Francia qua, facciamo in Italia con la droga gambe, per carità. Gianni, preparati, tu sei giovane, vero? Io Gianfra, entrando con 42 anni di servizio, per quello ti ho detto che vado prima dei 65 anni, capito? Perché se ho 59, io ho 39 anni, ho fatto a giugno al primo giugno proprio di servizio, cioè di lavoro, quindi conta 39, siamo nel 17, 40, 41, 42, quindi i conti tornano. Sì, se ne hai 42, sì, però non sono tanti che hanno 42 anni di servizio allo stato attuale, e poi saranno sempre di meno quelli che ce ne hanno, che ci arrivano, perché già lo sai il lavoro a che ti arriva adesso, se arriva. Beh, certo che sì, ho iniziato da ragazzino, quindi è così. Beh, esco a portare il cagnone e mi dà la porta che piange. Ci sentiamo dopo, se ci siete, ok? Ciao. Ciao Claudio, dai, vi saluto anch'io, che sto andando anch'io, sto uscendo, dai. Ci sentiamo, ciao Antoni, se decidi fai un colpo di ciao. Ciao, ciao. Ciao Gianni, anch'io mi devo allontanare, ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Natalino, ci sentiamo tardi, ci siete, già alle 7:30. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Gianfra, ciao. Marcolino, ci sei ancora? Marcolino, caput. Aspetta, Natalia, vigesi. Natalino.